veramente non capisco come tu non possa sentire una saudade natalizia su certo. questo brano. E mi ricorda, sai quelle pubblicità in cui c'è queste feste un po' snob con ragazze bellissime, giovani spiritosi, il brandy, io mi presento col panettone, vestito bene, faccio un sorriso a tutti, e tra i tanti invitati c'è sempre un nero, per così non facciamo così, no, certo. ci manca, e anche una coppia gay, anche una, cioè, sì, che non si capisce che insomma, certo. c'è del tenero. Mentre invece Kenny Dorham, qui alla tromba, per me è musicista veramente molto talentuoso, insieme a Joe Anderson, che hanno portato questa blue bossa. Mitica blue bossa. Adesso è uno standard jazz di una bellezza che mette insieme l'hard bop e la classicità della bossa. Molto bello. Allora, ci siamo salutati nella prima parte ricordando gli appuntamenti al centro, all'Aquila. Al centro Italia, sì, perché c'è Natale in Jazz all'Aquila, un'iniziativa che ormai da anni si ripete, organizzata dalla società Concerti Barattelli, che è per lo più impegnata su concerti di musica classica, no? Però non disdegna anche appuntamenti del jazz, che appunto è in collegamento con Umbria Jazz, quindi con il concerto festival poi successivo, quello di fine d'anno, che si ripete ogni anno ad Orvieto, e ogni anno ci sono stelle del jazz, italiane e non italiane, che calcano il palco dell'Aquila. Allora, per saperne di più, abbiamo contattato Patrizio Pezzopane, che è un po' l'art director della Barattelli, quindi un po' il magister di questa iniziativa, e sentendo un po' in generale il cartellone, però partiamo con una musica che ti dedico, un piccolo presente in Natale, perché risaliamo, so se ti ricordi, il 6 settembre del 2015, quando insieme andammo al concerto maratona del jazz per far rinascere l'Aquila dal terremoto. Che giornata faticosa mi hai fatto fare, ma molto però bella. Uno dei concerti applauditissimi era quello di Paolo Fresu. Sì. Paolo Fresu ha anticipato, lo sentiremo anche nell'intervista, questi 28, 29, 30 feste jazz dell'Aquila sotto Natale, l'hanno fatto domenica scorsa, gran successo ovviamente, quindi Paolo Fresu al Jazz dell'Aquila 2015, quando eravamo insieme a registrare e a intervistare i musicisti. A correre dietro ai musicisti. Abbiamo al telefono il dottor Patrizio Pezzopane, che è un po' il responsabile, l'art director dell'associazione Barattelli dell'Aquila, ma anche del festival di jazz dell'Aquila, che ogni anno si ripete, ormai una tradizione acquisita. In realtà è un festival che inizia con Paolo Fresu, ma salutiamo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, com'è andato domenica sera? È andato molto bene, naturalmente gli artisti, gli ospiti sono una garanzia, ormai tutti quanti già conosciamo, il programma molto intenso, suggestivo, adatto appunto al periodo, e tra l'altro pensi che questo progetto appunto Jazzy Christmas, il trio lo ha eseguito qualche giorno fa proprio a Istanbul, quindi insomma proprio ha una dimensione ormai veramente molto allargata, che va ben al di là di quelle che sono appunto le nostre tradizionali convinzioni religiose o insomma quantomeno spirituali, quindi insomma un segnale molto forte, molto intenso. E questo mi ci sta la prima domanda: quanto questo festival, che si terrà poi il pezzo centrale il 28-29 dicembre, quindi tra Natale e Capodanno, risente nelle scelte artistiche del periodo natalizio, oppure quanto il festival va per conto suo, diciamo? No, il festival che noi appunto chiamiamo Natale Jazz ha una totale autonomia, non ci sono collegamenti. In genere noi facciamo nei giorni e le settimane precedenti altri concerti che casualmente possono anche interessare questa tematica, come nel caso del concerto di ieri, ma non necessariamente, perché noi facciamo comunque all'interno della nostra programmazione, che va da ottobre ad aprile, anche altri appuntamenti jazz o comunque intorno a questo genere. Si focalizza con Natale in Jazz, che in genere viene fatto in tre appuntamenti, in tre giornate consecutive, e da alcuni anni questo programma noi lo realizziamo in collaborazione con la Fondazione Umbria Jazz. Infatti sono gli stessi artisti che poi si esibiranno a Orvieto in occasione di Jazz Winter, un festival Umbria Jazz. Attivissima è l'Aquila per il jazz. Sì, davvero, è un piacere. E quello che sentiamo è Francesco Caffiso, che sarà ospite nel terza giornata del Festival 30. Ricordiamo, per chi è qualche primavera di troppo come me sulle spalle, che a suo tempo era l'enfant prodigio, questo sassofonista siciliano, perché giovanissimo era già un prodigio parkeriano, poi è cresciuto, ne ha 31 adesso di anni, ed è rimasto un grandissimo musicista. Ed era appunto con Farao, sarà nel gruppo che chiuderà questi tre giorni di festival, però è Caffiso. La sede è sempre quella dell'auditorium? Sì, l'auditorium è l'auditorium del parco del castello. Bellissima location, peraltro. Sì, progettato da Renzo Piano, ed è lo spazio che è stato realizzato all'Aquila dopo il sisma del 2009, che comunque si è dimostrato essere uno spazio assolutamente straordinario, seppur nella sua contenuta dimensione. Infatti abbiamo già ovviamente venduto tutti quanti i titoli, abbonamenti e biglietti, ma d'altronde purtroppo gli spazi sono questi, e quindi siamo ancora in attesa di recuperare spazi più ampi per poter soddisfare, come è successo ieri, quando troppe persone non hanno potuto godere dello spettacolo causa la dimensione contenuta dello spazio. Veniamo allora al cartellone del fine d'anno, che inizia con un personaggio assai noto che è importante nel jazz, Giolovano. Sì, Giolovano quest'anno in realtà, cioè, i protagonisti, oltre il protagonista, oltre naturalmente agli artisti, sarà il sassofono, perché ci saranno appunto tre esecutori straordinari, appunto Giolovano, Chico Freeman e Francesco Caffiso, che sono un po' le guest star di questi tre spettacoli. Quindi un po' l'anno scorso era dedicato tutto al femminile, l'abbiamo dedicato espressamente alle donne del jazz, quest'anno c'è questa combinazione di questo strumento, che poi è lo strumento del jazz per eccellenza. Quindi questi sono i tre protagonisti. Naturalmente Giolovano sarà accompagnato dalla Umbria Jazz Orchestra, che è un po' una tradizione al festival vostro, perché ho visto Frizzell, ho visto Diana Reeves, anche John Scofield, sempre con l'orchestra dietro. Sì, certo, questo ormai è un target che noi abbiamo scelto, e che devo dire, insomma, garantisce un livello assolutamente di assoluta qualità. E poi nell'orchestra con Giolovano c'è un altro sax importante, Steve Wilson. Sì, certo, infatti Steve Wilson c'è, Peter Washington e Louis Nash, insomma, sono tutti nomi che, insomma, gli addetti ai lavori, gli specialisti. Aggiungiamo che anche gli arrangiamenti di direzione sono Michael Gibbs, che altro personaggio di peso. Esatto, infatti riusciamo sempre ad avere un concerto dei tre di dimensioni, lo spessore è alto per tutti, ma qui avendo anche l'orchestra, quindi c'è la possibilità un po' di presentare un programma un po' più ampio, di più ampio respiro, grazie appunto alla presenza di un ensemble ben nutrito e soprattutto rodato e di professionisti. E devo dire che gli amanti del jazz amano davvero quando c'è questa interazione con la grande orchestra, che sono sempre orchestrazioni davvero da seguire. Questo è chiaramente il sassofono di Joe Lovano, un'illustrazione un po' vecchia che ho avuto la sorte di recuperare perché è bellissima, perché con lui c'è Bill Frisell alla chitarra e il compianto Paul Motion alla batteria, un trio eccezionale. Infatti seguite la solo bello di Joe Lovano come sempre, ma anche le armonizzazioni di Bill Frisell e l'accompagnamento direi monchiano fuori dagli schemi di Paul Motion. Quali concerti hai già selezionato, Alfredo, per tutti? Tutti, tutti, anche perché hanno un vantaggio grande, almeno da vista da me, che sono le ore 18. Ah, quindi vai, perfetto. Che è poi anche freddo, sei d'inverno, almeno dovrebbe essere freddo, non so. Vai lì, ti vedi il bel concerto, due chiacchiere post concerto, bello, brutto, magnifico, eccetera. Poi dopo vai a mangiare. Ecco, è una seratina. Noi quando siamo stati a metà settembre, mi pare. 6 settembre. Il 6 settembre, e adesso è più caldo rispetto a quello che perché preso. Si diceva noi. Un tempo: se vuoi una vita d'inferno, Foggia d'estate, l'Aquila d'inverno. Adesso invece. Ormai Foggia è peggio che mai, ma l'Aquila. Comunque, veniamo al giorno successivo, al 29. Il giorno successivo, al 29, abbiamo Chico Freeman, figlio del grande Von Freeman, personaggio mitico dell'area di Chicago, ma anche Chico ha avuto e ha la sua importanza come sax tenore. Sì, beh, lui pure credo che abbia collaborato con tutti, insomma, o almeno insomma tutti quelli di questi ultimi anni, insomma, non è inutile adesso citarli perché sarebbero Tamadizzi, Lecchi Meccotania, Charlie Mingus, Art Beretti, insomma, non lo so, ce ne sono talmente tanti che veramente c'è da aspettarsi sicuramente serate molto molto intense. E al pianoforte Antonio Faraò, che paradossalmente è più conosciuto a New York che in Italia, è molto conosciuto dalla grande mela Faraò. Certo, sì, è vero, infatti lui è anche, sono artisti internazionali, ma anche lo stesso Alessandro Lanzoni, insomma è un nome con Francesco Cafiso, che tre generazioni, perché praticamente Joe Lovano credo che sia del 50 o 52, poi c'è appunto Antonio Faraò credo sia 67, 68 come data di nascita, poi Alessandro Lanzoni, Francesco Cafiso, credo che Lanzoni sia nato nel 90, quindi sono praticamente quasi tre generazioni, possiamo dire. Questo è anche molto bello, vedere questi confronti generazionali, e c'è veramente da augurarsi che tutti quanti restino soddisfatti, come d'altronde è sempre stato negli altri anni, abbiamo sempre avuto riscontri più che positivi, quindi insomma. We'll be right back. registrazione chiaramente rivedi insieme Von Freeman e Farao. Beh, questo è un willatone, come brano. Certo. Ho riconosciuto subito Farao. Un altro regalino che ti ho fatto, ma quanto, quanto pesa quest'albero di Natale? Tu non dimentichi certo di ricordarmelo. No, sempre. No, assolutamente discretissimo, mai, certo. mai. Beh, intanto abbiamo già visto, ascoltato una rassegna di musicisti, per quanto particolari, anche eterogenei fra di loro. Ma Giolovano quanti anni ha? Ne ha tanti, adesso non si può dire, ma ne ha tanti. E vorrei dire che Farao e Freeman faranno repertorio coltraniano. Ah, ok. Questo... E veniamo all'ultima parte dell'intervista. Ok, si tratta di? Si tratta di. Vedrai. Una conclusione, c'è la sorpresa anche qui. No, però senti. Potrebbe essere. La sorpresa arriva dopo. Questa dell'Aquila, questa presenza di jazz, getta dei semi oppure sono degli avvenimenti che belli ma che vengono e che vanno? No, dunque allora il jazz naturalmente noi non abbiamo, a differenza di altre città o altri centri, un festival specifico come succede, però noi da sempre la Società dei Concerti ha ospitato all'interno delle stagioni artisti, ma addirittura così una piccola nota di colore, il primissimo concerto, primo proprio della storia della Bratelli, 27 maggio 1945, addirittura a 20 giorni dalla fine della seconda guerra mondiale, l'armistizio ci fu, cioè le armate tedesche vennero scacciate il 7 maggio dello stesso anno, il primo concerto che fu un concerto per voce di soprano e pianoforte, terminava con quattro spirituals, che usando insomma, un termine che oggi non è più tanto, insomma non è particolarmente bello, vennero presentati come quattro negro spirituals. Si diceva così, infatti. Ecco, questo si diceva così. Quindi già il primo concerto accanto a Ridi, Caccini e Handel, c'era, terminò con questo. Poi, non so, io ovviamente non c'ero, però mi dicono le persone più anziane di me che nel 62 venne il Modern Jazz Quartet in una storica tournée e venne al Teatro Comune dell'Aquila. E poi insomma ce ne sono stati tantissimi. Poi già negli anni 2000 organizzavamo uno spazio jazz, che era una sorta di piccolo festival, e adesso poi lo abbiamo istituzionalizzato con questo Natale in Jazz, che però, ripeto, è il punto di arrivo e di partenza di altri concerti. Per esempio quest'anno, prima del festival, c'è stato ieri appunto il trio di Paolo Freso, ma qualche settimana prima c'è stata Petra Magoni, e poi nei prossimi mesi inviteremo, appunto abbiamo ancora alcuni concerti jazz, per esempio l'Opus Magnum Jazz Group con Ettore Fioravanti, poi abbiamo Ita Mela con Dado Moroni in quartet, e poi terminiamo con Roberto Gatto alla fine della stagione con sempre il suo quartetto. Quindi sono proprio degli appuntamenti che rientrano nel programma della stagione, programma in abbonamento, quindi insomma cerchiamo di dare sempre ampio spazio al jazz in generale. Perfetto. Nelle sue diverse ovviamente configurazioni. E la tradizione continua, dunque la ringrazio moltissimo e ci sentiamo. Grazie. Ci vediamo all'Aquila. Grazie a voi e un caro saluto. Arrivederci. Grazie. Queste sono ciaramelle jazzistiche che scendono dai monti per darci il buon Natale. È la sorpresa di oggi. Sì, perché allora il brano è il Jersey Band, la gruppo, e sai cos'è? È Green Leaves. Sì, auguri a tutti, anche i cugini di secondo grado. Ciao a tutte e a tutti, un buon ascolto, un buon Natale. Ciao, ci vediamo l'anno prossimo. Ciao a tutte, auguri.